Friuli nel mondo, 58esima trasmissione dedicata agli emigrati. Sagre d'agosto in Friuli. Suonano le campane del Friuli dalla montagna al mare. È agosto, è tempo di sagre. Ogni anno in questo mese i nostri paesi fissano un appuntamento con la serenità e con le cose buone. Da generazioni si ripetono riti che mantengono intatto il profumo della loro soave semplicità. Di buon mattino la comunità cittadina o paesana rinnova la propria professione di fede. La folla accede alle basiliche e ai santuari, onora la Madonna che chiama con dolci, ingenui e poetici nomi, la Beata Vergine delle Grazie di Udine e la Madonna Nera di Castelmonte, la Vergine del Mare di Barbana e la Madonna di Strada di Fanna, la Madonna di Rosa di San Vito, Rosa Mistica di Cormons e la Madonna Missionaria di Tricesimo, la Madonna di Screncis di Bertiolo e la Madonna di Lussari di Camporosso. Suonano le campane e nell'interno dei templi risponde l'organo, che scandisce con i suoi suoni gravi e maestosi i palpiti della speranza e dell'amore del popolo.